Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. C'è stato un arresto per gli attentati di ieri a Bruxelles, ma a differenza di quel che era stato indicato inizialmente, sembra che non si tratti di Najim Lachraoui, l'artificiere che avrebbe messo a punto anche le bombe di Parigi. E forse c'è una donna italiana tra le vittime, le verifiche sono in corso, la città intanto osserva un minuto di silenzio, uffici aperti ma aeroporto ancora chiuso. Si stringono le misure di sicurezza in Italia, anche l'esercito a presidio della stazione Termini, Renzi ribadisce, rischi ci sono ma nessuna minaccia specifica. Europei con partite a porte chiuse non è previsto, dice la UEFA. Ieri il vicepresidente Abete a Radio 24 aveva paventato il rischio che la misura fosse messa in atto. Annullata intanto l'amichevole tra Belgio e Portogallo. Salva banche, oggi si vota la fiducia al governo verso una proroga dei termini per la vendita delle Good Bank. Intanto si attendono notizie sulla fusione tra BPM e Banco Popolare. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, oppure l'email effettogiorno@radio24.it. E anche oggi e oggi inevitabilmente la puntata sarà ampiamente dedicata a quello che è successo ieri a Bruxelles con tanti fronti. È un'altra giornata intensa quella di oggi, è il giorno dopo gli attacchi terroristici all'aeroporto e alla stazione della metropolitana, due passi dalle istituzioni europee. Le notizie raccontano che tra le 34 vittime delle tre esplosioni ci potrebbe essere anche un'italiana, al momento data per dispersa, e sul fronte delle indagini è stato arrestato un uomo che inizialmente si riteneva fosse quello ripreso anche dalle telecamere che avrete visto nelle foto, con un cappellino in testa, Najim Lachraoui. Dunque, andiamo subito in diretta con la procura, dove si trova Maura Bertanzon, dove tra poco dovrebbe iniziare una conferenza stampa. Maura, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, la conferenza dovrebbe iniziare fra pochi secondi. Il procuratore federale è entrato in questo momento in sala stampa e potrà confermare se effettivamente Lachraoui non è l'uomo arrestato poche ore fa ad Anderlecht. I particolari si succedono e vengono anche smentiti ora dopo ora. Un'altra cosa che è emersa poco fa, che riporta il sito Dernier Heure, è che la compagnia di taxi avrebbe sbagliato a registrare la prenotazione dei terroristi che avevano richiesto un van, quindi quasi un camioncino a più posti, e per questo avrebbero dovuto lasciare la quarta bomba nell'appartamento di Skarbek, che è stato perquisito ieri sera, una quarta bomba che avrebbe potuto amplificare ancora di più la portata di quello che è successo all'aeroporto di Zaventem. Direi che ci riaggiorniamo più tardi appena abbiamo qualche particolare in più dalla procura. Ti ringrazio Maura, dunque più tardi ci sentiremo, come si diceva tra pochi istanti dovrebbe iniziare la conferenza stampa, magari dopo le 13.30 quando avremo qualche dettaglio in più dalla procura torneremo a collegarci con Maura Bertanzon per avere qualche dettaglio in più sulle indagini. E spostiamoci ora a vedere quello che sta, e a sentire ovviamente quello che sta succedendo in città, per cercare di dare un quadro di quello che sta avvenendo in queste ore dal punto di vista degli uffici, dell'aeroporto, del minuto di silenzio osservato a mezzogiorno e di come sta vivendo Bruxelles queste ore, 24 ore appunto dagli attacchi terroristici. Il nostro inviato Sergio Nava, buongiorno Sergio. Buongiorno Simone, allora diciamo che innanzitutto mi trovo in Place de la Bourse, che è ormai un po' il cuore pulsante di quello che potremmo definire l'equivalente dei Place de la République, quella che è stata Place de la République a Parigi dopo gli attentati. Qui sono ancora riunite diverse centinaia di persone, sono venute a mezzogiorno a rendere omaggio alle vittime. Un lungo minuto di silenzio seguito da un lunghissimo applauso ha commemorato le vittime. Non solo qui si è tenuto il minuto di silenzio, ma un po' in tutta la città e anche un po' in tutto il Belgio. I reali del Belgio sono stati nei pressi di Rond-Point-Schumann, vicino alle istituzioni europee. E la città, diciamo, oggi funziona parzialmente, potremmo dire. Sono stato questa mattina anche alla stazione centrale, che funziona, i treni partono e arrivano regolarmente, ma le persone che sono arrivate, che abbiamo intervistato, ci hanno raccontato di vagoni sostanzialmente semivuoti, molto tranquilli, pochissima gente sui treni. Fuori dalla stazione centrale c'è un forte dispositivo militare, camionette, militari schierati appunto a difesa della stazione, c'è un checkpoint in ingresso per verificare chiunque entri se ha il biglietto, se ha valigie sospette, eccetera. Quindi la situazione funzionano i trasporti, però insomma con le dovute precauzioni. La stessa linea metro, ci sono due linee della metropolitana chiuse, è stato annunciato anche che anche domani l'aeroporto di Zaventem, quello principale, quello colpito dall'attacco, rimarrà chiuso. Cosa dirvi invece dell'atmosfera che abbiamo potuto testimoniare? Al di là del cordoglio, al di là del lutto anche che abbiamo visto, le persone commosse che sono venute qui a rendere omaggio alle vittime, ci sono anche scene che fanno riflettere. A uno ho personalmente assistito una mezz'ora fa, un piccolo assembramento di persone dove c'erano due persone, una donna e un uomo, entrambi belgi, che discutevano animatamente con un imam nel mezzo. La donna attaccava l'imam dicendo dovete fare pulizia all'interno della vostra comunità, l'uomo, anche lui tra l'altro non musulmano, quindi che difendeva invece l'imam e diceva è stato un attacco contro più che le religioni, un attacco contro l'umanità, non si può incolpare solo una regione. L'imam è rimasto zitto a lungo dopo che ha parlato con la donna e ha cercato anche un po' di calmarla, però questo per darvi l'idea di alcuni germi di, se vogliamo, scontro che si stanno aprendo, alcune faglie di scontro che si stanno aprendo dentro la società belga, unita attualmente nel lutto, però il rischio che si aprono chiaramente delle divisioni etniche o di religione esiste, anche perché questo è un paese chiaramente già di per sé, tra virgolette, diviso al suo interno, con due regioni, la Fiamminga e la Vallone, con comunità, Bruxelles è una città estremamente multiculturale, ci sono comunità di tutte le religioni, quindi bisogna stare purtroppo anche molto attenti a questo. Infine vi lascerei con la registrazione che abbiamo fatto con un italiano che abbiamo incontrato proprio in Piazza Borsa, un italiano qui in visita di lavoro con un gruppo di colleghi, si chiama Matteo, sentiamo cosa ci ha detto sul clima che ha respirato, lui è arrivato proprio ieri mattina. Noi siamo qua per una fiera che è stata poi annullata e era tenuta alla zona Isel, quindi quella zona di per sé non ha ricevuto particolari attenzioni, se vogliamo chiamarle così. Però in generale siamo arrivati e c'erano già soldati per le strade. Sicuramente nella giornata di ieri la situazione è diventata surreale. E come si diceva, da Bruxelles arrivano notizie secondo le quali ci potrebbe essere anche una donna italiana tra le vittime. Livia Zancaner, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, l'italiana Patricia Rizzo, impiegata presso un'agenzia della Commissione Europea, è tra le persone che risultano scomparse da ieri dopo l'attentato alla metropolitana Malbec. Familiari e amici la stanno cercando, il cugino Massimo Leonora da ieri chiede aiuto sui siti belga e poi anche su Facebook, che scrive: se avete delle informazioni oltre a quelle dei call center degli ospedali, per favore chiamatemi, vi chiedo aiuto. È questo che scrive appunto su internet. Proprio questa mattina la Farnesina ha parlato di una probabile vittima italiana, senza indicare però i nomi, e la commissaria europea Georgieva ha comunicato che tra le vittime ci sono tre funzionari della commissione. Il ministro Lupi, sempre questa mattina, ha spiegato che si tratterebbe di una donna che prendeva normalmente la metropolitana e che era dispersa. La violenza dell'esplosione però nella metro ha reso le vittime riconoscibili, quindi le verifiche sono in corso, ha spiegato sempre il ministro. I familiari sono con il console a Bruxelles, l'unità di crisi è in contatto con la famiglia per l'assistenza necessaria per le eventuali procedure di identificazione. Queste le notizie arrivate finora, dopo per eventuali aggiornamenti. A te Simone. Grazie anche a Livia Zancaner per questo aggiornamento. Abbiamo parlato di Bruxelles, bene, adesso spostiamoci a quelli che possono essere i rischi che si corrono e il rafforzamento delle misure di sicurezza in Italia. Ci spostiamo alla stazione Termini di Roma, dove si trova Alessandra Schepisi. Alessandra, eccoci. Sì, buongiorno dalla stazione Termini, dove i controlli, lo possiamo dire con certezza, sono stati effettivamente rafforzati sia all'interno sia presso tutti i varchi di ingresso. Si vedono più blindati dei carabinieri e molti blindati dell'esercito, più golf car con le macchinette della polizia che circolano all'interno, e sappiamo anche che ci sono più uomini in borghese che controllano eventuali sospetti. Qui a Termini da tempo, cioè dopo gli attentati di Parigi, ci sono già delle barriere oltre le quali si accede per salire stupefacenti, è possibile farlo solo se muniti di biglietto. Poco fa abbiamo sentito dall'altoparlante l'avviso ai passeggeri che appunto vengono invitati a rendere più agevole il controllo mostrando il proprio titolo di viaggio, però abbiamo verificato personalmente i controlli sono solo sui biglietti e non anche sui documenti. Come sappiamo, in tutta Roma sono state innalzate le misure di sicurezza, ma anche in altri luoghi d'Italia, come ha deciso ieri il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Qui a Roma, anche in vista degli appuntamenti pasquali, ci sono appunto appuntamenti che preoccupano, dalla Via Crucis di venerdì sera alla messa di domenica a San Pietro, e per i quali saranno in campo migliaia di uomini. Dunque si prepara una Pasqua blindata in tutta la città. L'allerta è a massimi livelli, cioè a livello 2, rimane in realtà a livello 2, cioè quello che precede l'attentato in corso, ma nell'ambito di questo livello sono stati rafforzati i controlli. Si pensa anche all'installazione di metal detector nelle stazioni. A Fiumicino rafforzati i controlli nelle aree pre-imbarco, fuori e dentro i quattro terminal, sorveglianza rafforzata sul web, controlli nei centri islamici, nelle carceri. Tutto questo anche se antiterrorismo 007 non rilevano minacce concrete e specifiche nei confronti del nostro paese. A te, Simone. E grazie Alessandra Schepisi. Cosa fare contro tutto questo è la domanda che ci si sta ponendo da ieri e che già ci si è posti da novembre, dopo gli attentati di Parigi. Ci sono le dichiarazioni che arrivano in questo momento dal commissario europeo Dimitris Avramopoulos, il quale dice: se tutto quanto era stato deciso lo scorso anno fosse stato messo in atto, avremmo potuto essere più efficienti, e denuncia la mancanza di fiducia tra gli stati. Di questo vorrei parlare con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per un'analisi e un commento su quello che è successo. Alberto, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, mi sembra che Avramopoulos metta il dito nella piaga. Beh sì, probabilmente si parlano di più jihadisti tra di loro, tra Bruxelles e Raqqa, che non i servizi europei tra di loro, cioè evidentemente non c'è comunicazione, ma l'avevamo visto anche in occasione degli attentati di Parigi, quando Salah ha attraversato poi la frontiera belga e si è reso poi imprendibile primo la rossa per 4 mesi. Peraltro il suo compare Mohamed Belkaid, che è stato ucciso a Forest martedì scorso, era arrivato dall'Ungheria, presumibilmente in realtà partito dalla Siria, è arrivato dall'Ungheria e lui era andato a prenderlo in Ungheria, avevano passato la frontiera ungherese, quella austriaca e infine quella belga. Quindi insomma una sorta di campionario di falle nell'intelligence europea, che la dice lunga sulla collaborazione tra paesi che in realtà non sono amici. Sono forse alleati, ma soprattutto concorrenti. Ecco, questo è un fronte. Cosa intendi, Alberto, quando dici che i paesi europei, e nello specifico alcuni paesi europei, sono concorrenti da questo punto di vista? Mi riferisco per esempio alla Francia e all'Italia. Nel 2011, quando i francesi bombardarono Gheddafi, non ci fecero neppure una telefonata, e se non li avessimo fermati avrebbero bombardato persino i terminali dell'Eni a Mellisa. Questo è un alleato? Beh, insomma, signori, qui bisogna rendersi conto che ci sono politiche contrastanti tra le varie potenze europee, anche nei confronti del terrorismo, perché alcune di queste potenze sono state coinvolte in questa vicenda. La Francia nel 2013, insieme agli Stati Uniti, voleva bombardare Bashar Assad, diede anche l'appoggio al passaggio dei jihadisti dalla Turchia. Poi non ne ha fatto nulla, l'intervento della Russia ha salvato il regime di Damasco, e alla fine adesso i jihadisti si vendicano anche delle potenze che hanno mancato in fondo le loro promesse. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per la sua analisi come sempre puntuale. Abbiamo detto, e ha detto anche lo stesso commissario Avramopoulos pochi istanti fa, che è qualcosa con cui tutto questo è qualcosa con cui inevitabilmente in parte dovremo convivere. Ebbene, abbiamo cercato di riassumere nella scheda realizzata dalla nostra Valeria De Rosa quante volte negli ultimi anni il terrorismo jihadista ha colpito in questa parte d'Europa. Gli attentati avvenuti in Europa negli ultimi 15 anni non sono tutti uguali. Quelli di matrice islamica esplodono letteralmente nel 2004 in Spagna, in un attacco coordinato al sistema di treni locali a Madrid. 191 morti e oltre 2.000 feriti. L'11 marzo, pochi giorni prima delle elezioni, 4 treni in 4 stazioni, all'ora di punta. L'anno dopo i terroristi colpiscono la Gran Bretagna, 56 morti, 700 feriti, nella piena estate londinese. I kamikaze colpiscono il sistema di trasporto pubblico tra le 9 e le 10 del mattino. Poi silenzio per 7 anni. I terroristi tornano e colpiscono la Francia nel 2012. Tra l'11 e il 19 marzo, un franco algerino, Mohamed Merah, spara a Tolosa due volte e a Montauban uccide 7 persone prima di essere ucciso a sua volta dopo un assedio di 30 ore. 2 anni dopo è il Belgio a fare i conti con il terrorismo islamico. Nell'attacco antisemita al museo ebraico muoiono 4 persone. Il 2015 si apre con la strage di Charlie Hebdo. Ancora una volta la Francia è la scelta dei terroristi. 12 morti al giornale. Il giorno dopo, l'8 gennaio, viene assassinata una poliziotta da colui che sparerà in un supermercato kosher, uccidendo 4 persone. L'anno si chiude con la tragedia del Bataclan. Gli assalitori fanno strage anche davanti ad alcuni caffè. Alla fine i morti sono 129. Gli attentati di Bruxelles aggiornano il numero portandolo a 435. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro sugli attentati. E poi c'è un fronte, per così dire, sportivo. Ieri il vicepresidente UEFA, in un'intervista a Radio 24, a Bete, ha detto che alcune partite degli europei potrebbero essere giocate a porte chiuse. Oggi è arrivata di fatto la smentita della stessa UEFA, dell'organismo del quale è vicepresidente, ma soprattutto la notizia delle ultime ore è una conferma. Però vedo dai messaggi su WhatsApp che mandate che già fa discutere, ossia la decisione di non far giocare Belgio-Portogallo, un amichevole. Carlo Genta, eccoci. Ciao Simone, già ieri era stata avanzata questa ipotesi, o forse più che un'ipotesi, che appunto Belgio-Portogallo in programma il 29 a Bruxelles non venisse giocata. Le ragioni sono anche di ordine pubblico, ma anche del perché le forze di sicurezza sono impegnate solo in altre faccende affaccendate, quindi è una decisione in qualche modo normale questa. Ricordiamo invece che si correranno regolarmente le grandi classiche del nord del ciclismo, e questa è una notizia importante. Già oggi c'è la vigilia della Gambe Velgem, che apre il programma, che domenica, giorno di Pasqua, aprirà il programma delle grandi corse del Belgio. È in programma l'edizione numero 100 del Giro delle Fiandre una settimana dopo, una corsa che porta sulle strade un paio di milioni di persone, e quindi le grandi classiche del nord del ciclismo in questo momento non sono in pericolo né in discussione. Questa partita non verrà disputata appunto per ragioni di sicurezza. Però, come dicevi tu, l'UEFA oggi ha precisato quanto ieri detto da Abete. Non la leggo come una smentita, perché ieri a domanda Abete possibilità di europei a porte chiuse, di partite a porte chiuse, ha detto è una decisione che passa sopra le teste del comitato organizzatore, che ovviamente riguarda altri. Quindi questa possibilità io non posso escludere esista. Oggi l'UEFA ha detto che questa possibilità verrà scongiurata, e questo lo leggo come un grande segnale. Ovviamente non è in discussione la disputa degli europei in Francia a giugno, e l'UEFA dice che non è in discussione nemmeno l'eventualità di partite a porte chiuse, e quindi credo che questa sia una grande risposta. Ti ringrazio, grazie a Carlo anche per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione andremo anche sulle altre notizie. Abbiamo molto di che parlare di banche oggi, perché c'è la fiducia sul cosiddetto salvabanche, e poi c'è in ballo la fusione tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare. Ci sono ovviamente anche i mercati, ma prima vi racconteremo una storia di un italiano che è arrivato davanti alla stazione della metropolitana di Malbec appena avvenuto l'attentato. Un italiano che è andato là, ha aiutato le persone ferite. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. C'è stato un arresto per gli attentati di ieri a Bruxelles, ma pare che non si tratti di Najim Lachraoui, l'artificiere che avrebbe messo a punto anche le bombe di Parigi. Altri dettagli che arrivano in questi minuti: anche l'attacco nella metropolitana sarebbe stato messo in atto da un attentatore suicida. E forse c'è una donna italiana tra le vittime, le verifiche sono in corso, sono 3 in realtà i funzionari della Commissione Europea feriti, e non sono 3 i funzionari della Commissione Europea morti come indicato inizialmente. C'è stata una correzione da parte delle agenzie di stampa. Si stringono le misure di sicurezza in Italia, anche i parà a presidio della stazione Termini. Renzi ribadisce: rischi ci sono, ma nessuna minaccia specifica. Per quanto riguarda il calcio, l'avete sentito poco fa, è stata annullata l'amichevole Belgio-Portogallo. E torniamo dunque a Bruxelles. Gianmarco Bondi ha 23 anni e sta facendo uno stage all'Olaf, che, della quale noi ci siamo occupati per ben altri motivi, spesso perché è l'organismo antifrodi europeo. Buongiorno Bondi e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori, grazie per l'opportunità. Mi racconta un po' che cosa è successo ieri, perché so che lei è arrivato a Malbec, alla stazione della metropolitana, praticamente nell'immediato appena è avvenuto l'attentato, e ha dato una mano là. Esatto, ho deciso di andare a piedi al lavoro ieri perché c'era bel tempo e mi ero svegliato presto, non avevo bisogno di andare in ufficio per chissà quale incontro, e quindi sono passato a fianco all'uscita secondaria di Molbeck, cioè non quella che dà su Arlois, ma quella che dà su Rue Joseph II, dove c'è anche l'Olaf, l'ufficio dove lavoro. E letteralmente appena sono passato a fianco all'uscita, sono cominciato a uscire queste persone e sembrava quasi fosse Halloween, cioè tanto che un passante ha detto: ma che scherzo di cattivo gusto. E poi però io mi sono avvicinato e mi sono reso conto che c'erano persone che avevano i capelli impolverati, la faccia sporca, coperti di sangue. Da quel punto ho cercato di aiutare per quanto possibile. Ed è riuscito a supportare qualcuno, cioè è riuscito ad avvicinare qualcuno, a dare una mano, a chiamare soccorsi? Sì, c'era una ragazza che ho visto è in grado di camminare, di parlare, quindi ho pensato che volesse contattare i suoi genitori. Ho preso il mio telefono, ha chiamato suo papà in Spagna, tra l'altro mi è arrivato un messaggio in francese nel pomeriggio di ieri, quindi devono essere iscritti al mio numero attraverso la chiamata, una cosa molto carina da parte loro. Però poi ho visto che c'era un ragazzo inglese invece lungo disteso che aveva ferite alla testa, alle braccia e alle gambe, ho pensato che lui avesse bisogno di più aiuto, quindi sono andato subito a cercare di fare qualche cosa pur non avendo io alcuna preparazione in termini di soccorso. Però è arrivata la polizia, poi l'ambulanza, ma i paramedici quando sono scesi hanno cercato di occuparsi di questo ragazzo inglese, ma poi la polizia li ha quasi strattonati dicendogli di andare in direzione della metro, penso perché forse c'erano casi più gravi dentro la metro stessa. Io credo di aver visto quelli che erano mentre uscivano quando c'è stata l'esplosione, appunto. Quindi questo è il quadro al quale ha assistito, perché lei ha detto: sono andato a piedi, perché normalmente in realtà lei avrebbe preso la metropolitana e sarebbe, presumo, sceso a Malbec. Ma di solito la metropolitana la prendo quando molto vocalmente mi sveglio tardi, oppure c'è bisogno che mi presenti in ufficio per un incontro in mattinata. Essendo che io vivo a Merode, avrei preso quella linea. Sicuramente non sarei sceso a Malbec perché il mio ufficio è davanti ad Arlois. Ma è la fermata successiva. Ho avuto fortuna. Ma è la fermata successiva. A quel punto, naturalmente, si è allontanato perché è arrivata la polizia e sono arrivati i soccorsi. No, io sono rimasto là perché purtroppo, in una situazione caotica, anche le ambulanze che passavano andavano dritte verso la metropolitana stessa. Quindi cercavo anche di sbracciarmi per aiutare questo ragazzo in modo che arrivasse qualcuno ad occuparsi di lui. Anche perché sanguinava copiosamente, insomma, aveva bisogno chiaramente di qualcuno che gli andasse a dare un'occhiata. Io ho chiamato sua moglie, per quanto suo, comunque non mi sembrava che fosse in pericolo di vita, che non si dovesse preoccupare, perché lei lavorava alle istituzioni europee, quindi le era stato detto di non lasciare l'ufficio dove si trovava. E poi lì è stato il momento in cui allo shock è subentrata la paura, quando la polizia stessa è uscita di corsa dalla metropolitana, cominciata a gridare: scappate, scappate, scappate. Io a quel punto pensavo che non che ci fosse una bomba, pensavo che ci fosse qualcuno armato che sarebbe uscito dalla metropolitana, avrebbe iniziato a sparare all'impattato. Allora io sono corso proprio per la vita, e questo era lo stesso ragazzo che era comunque gravemente ferito, è riuscito ad alzarsi, avrà avuto una botta di adrenalina. Abbiamo fatto quei 50 metri che mi hanno permesso di arrivare poi all'Olaf. E a quel punto mi permette di spezzare una lancia in favore dei miei colleghi, anche se ne siete occupati a Radio 24, non avevo avuto alcun dovere di accoglierlo, invece sono arrivato con lui, l'abbiamo portato in una stanza, abbiamo chiamato infermiere per cercare di aiutarlo, sono arrivato addirittura due farmacisti della farmacia davanti, insomma si è fatto un gran lavoro per anche cercare di tenerlo semplicemente sveglio, per non farlo addormentare. E poi è arrivata l'ambulanza e l'ho seguito con lui, sono stato scortato dalla polizia all'interno dell'ambulanza, fino all'hotel Ton, che è un hotel in Arluan, dove avevano fatto i primi feriti, immagino, sì, per... Dove è stato allestito, sì, lo abbiamo raccontato ieri, dove è stato allestito una sorta di centro di soccorso. La ringrazio, grazie a Gianmarco Bondi. Mi permetta però di lanciare un messaggio solamente per quello che è successo, perché ci tengo veramente, che ho questo privilegio e vengo a poter di parlare. Io penso che ci sia bisogno di più Europa e non di meno Europa. Bisogna parlare di intelligenza europea e in senso concreto. La ringrazio. Grazie a Gianmarco Bondi, soprattutto per il suo racconto. Adesso, prima di andare a chiudere, a sentire come sempre che cosa succede sui mercati di banche che ci occupiamo, su due fronti. Da una parte il decreto salva banche, che oggi approda con per il quale oggi arriva il voto di fiducia, e dall'altra parte l'ipotesi di fusione tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare. Iniziamo dal fronte politico e lo facciamo con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Voto di fiducia, Simone, alle battute finali, preceduto tuttavia da alcune proteste delle opposizioni, in particolare dei deputati del Movimento 5 Stelle, che hanno mostrato in aula alcuni barattoli salvadanaio con sopra disegnato il simbolo dell'euro, gli stessi utilizzati questa mattina alla manifestazione davanti a Montecitorio. Ma venendo al testo, nel passaggio alla Camera il provvedimento, che contiene, oltre alla riforma del credito cooperativo e la garanzia pubblica sulle sofferenze, è stato arricchito di alcune modifiche. La principale riguarda la cosiddetta way out, ovvero la possibilità di non aderire alla holding per chi ha un patrimonio netto superiore ai 200 milioni, conferendo così l'attività ad una società per azioni. Dicevamo delle proteste delle opposizioni, soddisfatto invece il governo. Sentiamo allora il viceministro all'economia Zanetti. Io credo che il decreto risponda all'esigenza di un importante consolidamento del settore del credito cooperativo, ma è stato anche oggettivamente migliorato dal Parlamento, soprattutto preservando le riserve indivisibili che devono restare del mondo mutualistico. Altro fronte, Simone, quello delle banche salvate a novembre. Slitta il termine entro il quale cedere le quattro good bank. Secondo fonti del Ministero dell'Economia la scadenza andrebbe a settembre. L'Unione Europea avrebbe inizialmente indicato invece tempi più brevi, quindi fine aprile. Da qui le polemiche riportate oggi anche da alcuni quotidiani. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e qua naturalmente correzione mia sull'errore che ho fatto nel titolo, abbiamo messo salva banche, ovviamente nel decreto legge sulle banche il salva banche è, per così dire, acqua passata, anche se non completamente. Abbiamo invece in studio con noi Marco Ferrando del Sole 24 Ore per fare un punto sulla vicenda BPM Banco Popolare. Marco, eccoci. Sì, buongiorno, ma dovremmo essere arrivati al giorno buono per l'approvazione del primo passo di questa sospirata fusione, da mesi che se ne parla. In questo momento sono in corso i due consigli, consiglio di gestione della BPM e consiglio di amministrazione del banco, da cui appunto dovrebbe arrivare il voto favorevole al primo accordo, il memorandum of understanding, da cui partirà il lungo processo e anche non scontato, se vogliamo, perché si tratta ancora di banche popolari, e quindi voto capitario in assemblea con tutti gli umori che sappiamo essere sempre imperscrutabili da parte di queste assemblee. La BCE non ha ancora dato l'ultimissimo via libera, però questa mattina ha parlato il capo della vigilanza Daniel Nui, parole positive, quindi in sostanza veramente dovrebbe essere ormai una formalità questo ultimo semaforo verde. Gli occhi sono puntati essenzialmente sul Banco Popolare, banca più grossa ma forse meno patrimonializzata, a cui per questo potrebbe essere chiesto un mix di azioni di rafforzamento del valore di circa 1 miliardo, tra cui anche un possibile aumento di capitale. Entro serata si saprà, perché le banche, i cui titoli sono sospesi a conferma del fatto che siamo, come dire, nel giorno buono, le due banche dovrebbero comunicare le modalità del matrimonio. E vedremo, e ovviamente vi aggiorneremo su Radio 24, vi aggiorneremo naturalmente anche sul sito del Sole 24 Ore, poi troverete molto anche sul Sole 24 Ore domani in edicola. Abbiamo detto Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, che sono sospese, ma ovviamente ci sono altri titoli quotati in borsa, ci sono tutti gli altri e ne parliamo come sempre tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Le ultime notizie che arrivano da Bruxelles arrivano dal procuratore federale della capitale belga in conferenza stampa. Il bilancio è al momento di 31 morti e 270 feriti. A quanto sembra è stato ritrovato anche un computer con una sorta di testamento di uno dei due fratelli che si è fatto esplodere nella metropolitana e in aeroporto. I due tra l'altro avevano pesanti precedenti penali non legati al terrorismo, però. e forse c'è una donna italiana tra le vittime, sicuramente è dispersa, le verifiche sono in corso, la Farnesina sta prestando assistenza ai familiari della donna italiana che in questo momento stanno aspettando notizie, sono almeno in parte arrivati a Bruxelles. Si stringono le misure di sicurezza in Italia, anche il parapresidio della stazione Termini, Renzi ribadisce che i rischi ci sono ma non c'è nessuna minaccia specifica, nel frattempo è stata fatta saltare, è stata annullata l'amichevole Belgio-Portogallo. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, innanzitutto con gli aggiornamenti che stanno arrivando in questi minuti dalla procura di Bruxelles, perché appunto è iniziata la conferenza stampa, è iniziata intorno all'una e stanno emergendo dei dettagli interessanti, in particolare per quanto riguarda i due fratelli che si sono fatti esplodere. Dunque ci colleghiamo con Maura Bertanzon che si trova là e sta seguendo la conferenza stampa. Maura, eccoci di nuovo, che cosa ha raccontato il procuratore? Ciao Simone, la conferenza stampa è terminata un minuto fa, hanno confermato l'identità dei due fratelli kamikaze, Ibrahim e Khalid El Bakraoui. Ibrahim sarebbe il kamikaze il kamikaze dell'aeroporto di Zaventem, mentre non è ancora noto chi sia la seconda persona che vestita di scuro che spingeva con lui un altro carrello, non è ancora, così come non è ancora noto l'identità del terzo sospettato, la persona di cui che è cercata fin da ieri, quella con la giacca chiara. Si pensava fosse Naim Lasharawi, che fosse stato arrestato poco fa ad Anderlecht, ma è stata smentita questa notizia. Intanto comunque è stato confermato che Khalid El Bakraoui, l'altro, il fratello di Ibrahim, è il kamikaze del metro di Malbec. L'esplosione è avvenuta nella seconda carrozza e Maura, scusa, quindi ci sembra di aver capito che l'unica certezza che abbiamo al momento è che i due fratelli si sono fatti esplodere, uno all'aeroporto e uno nella metropolitana. Mi sembra di aver capito che gli inquirenti hanno trovato anche un computer appartenente a uno dei due, eh? Si parlava di un computer, non è stata confermata la cosa, è stato confermato che in un cestino della stessa via di Scarbec dove ci sono state perquisizioni ieri sera è stato trovato il testamento, una specie di testamento di Ibrahim El Bakraoui, in cui lui dice di sentirsi braccato e di non voler essere accomunato alle cellule terroriste che avevano a che fare con Salah Abdeslam. Hanno anche dato dei dati su quanto trovato nell'appartamento di Scarbec, si parla di 15 kg di esplosivo, di acetone, di acqua ossigenata e di chiodi. Poi comunque il centro di crisi ha confermato che verrà attivato dalle 2 del pomeriggio un nuovo punto di informazione e anche accoglienza per i feriti all'ospedale militare, che restano comunque attivi i numeri di emergenza che sono stati dati fin da ieri. Resta chiuso il traffico aereo a Zaventem fino a nuovo ordine. Sì, allora, tra l'altro sono state fornite le cifre, al momento siamo, come si diceva prima, 31 le vittime e 270 i feriti, questo il quadro che appunto abbiamo al momento da Bruxelles. Ovviamente le operazioni di polizia da questo punto di vista proseguono. Ti ringrazio, grazie ancora a Maura Bertanzon per questi aggiornamenti. E a proposito di tutto questo, vi vogliamo far ascoltare un'intervista. Molto si è parlato in queste ore anche del quartiere di Molenbeek a Bruxelles, che è il luogo dove è stato arrestato il terrorista più ricercato d'Europa, Salah Abdeslam, l'altro giorno. Arresto che tra l'altro gli arresti che sono avvenuti nei giorni scorsi hanno innescato anche delle piccole rivolte all'interno del quartiere, un po' come quelle che in altre occasioni abbiamo visto in zone ad alta densità camorristica, quando viene arrestato un boss o qualcuno importante appartenente alla camorra, una vera e propria protesta contro la polizia. Allora abbiamo voluto ragionare di questo, ossia dei quartieri nei quali una forte immigrazione con un'elevata percentuale di persone di religione musulmana si raccoglie, e ne abbiamo ragionato con con Fouad Hadi, che è presidente della comunità del mondo arabo in Italia. Nell'intervista di Roberta Pellegata si parla proprio delle differenze che ci sono tra l'Italia e il Belgio e la Francia, dove la presenza di quartieri ad altissima concentrazione di musulmani della stessa nazionalità, non integrati nella società in cui sono nati e cresciuti, rappresenta uno dei problemi più grandi. Sentiamo. L'immigrazione in Europa sono vari, quelle più recenti e quella meno recenti. In Italia è recente l'immigrazione, per questo ha una tipologia diversa. Invece dal Belgio, dalla Francia e Olanda ha una realtà diversa che è più radicata. Si parla già della terza generazione, si parla di una concentrazione massiccia dei cittadini di origine straniera e in particolar modo mononazionale, purtroppo. L'ho visto in Francia, gli algerini stanno in un quartiere, i marocchini in un quartiere, e questo non aiuta l'integrazione, non aiuta l'inserimento nel mondo lavorativo e tante volte crea crisi di identità nella seconda e terza generazione, che purtroppo possono essere soggetti abitibili a questi movimenti estremisti radicali che mirano a persone che stanno in difficoltà. E purtroppo stiamo assistendo a una tipologia di terrorismo feroce, ma anche familiare nel senso che vediamo tutti i nuclei che appartengono alla stessa famiglia o allo stesso clan, e questo purtroppo non aiuta la prevenzione. C'è il traffico, come sempre America 24, con il nostro Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.